E io che mi ero convinto che i gusti fossero mutevoli, o almeno lo speravo. Perché se cambiano i nostri gusti vuol dire che anche noi un po' cambiamo. Cioè che le persone possono essere, seppure di poco, un po' diverse da come lo erano prima. Perché quello che ci piace ci definisce, dice chi siamo e quello che possiamo diventare. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16 e 8 minuti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e sono qui. Passiamo il tempo a dissuadere. Ma tanto loro resistono e vanno in cerca di un'altra finanziaria che il prestito glielo farà. È come fermare un fiume con una mano. Il fatto è che c'è un credito buono, che è quello per lo sviluppo, l'imprenditoria, il viaggio, e invece un credito cattivo, che sono tutte le cose troppo effimere. Ci sono quelli che si fanno prestare i soldi per i matrimoni o per la vacanza, che è effettivamente un settore in boom. Perché dici, arrivo ad agosto e non riesco a fare le vacanze. Queste sono le tipiche motivazioni per il prestito personale. Anche qui, ad esempio, c'è una banda di sfigati che vogliono spendere 30.000 euro in un giorno per sposare una figlia, se bastano. Poi è una questione di moltiplicazione delle fonti di indebitamento. Non è che in sé ci sia qualcosa di sbagliato, a mio parere, nel chiedere dei soldi. Può avere la sua logica. Se tu sei una persona che ama viaggiare e decide di ammortizzare il costo di una vacanza all'altra, nello spazio di tempo che passa da una all'altra, pur di fare un viaggio che ti sei sognato, io come faccio a dire che è una cosa cattiva? Certo è che se prima fai il viaggio, poi compri la macchina e poi l'auto, è che quando ti abitui a certi tenori di vita elevati, tornare indietro è difficile. È una questione di identità personale. Perché se uno è sfigato e buonanotte. Ma quando uno è diventato rispettabile, con un certo tenore di vita, lì si scende. E scendere diventa una sconfitta. Brucia. Ecco, lì sono le poche volte che ho visto veramente la vergogna. Cioè quando un mio cliente mi ha dovuto confessare di non essere più ricco. Ecco, in questo libro si parla di quei soldi prestati in Italia nel primo decennio del XXI secolo. È il denaro che gli italiani hanno cominciato a noleggiare furiosamente, con tassi di crescita per gli istituti e le finanziarie che li hanno fidanzati del 300% di anno in anno, in tutti i settori, che in questo particolare mercato includono elettrodomestici, vacanze, eventi speciali, bisogni speciali. Gli eventi speciali sono i matrimoni, i bisogni speciali sono l'improvvisa necessità di 5, 10, 15.000 euro. Ma non sono affatto speciali, sono regolari. Questo è un pezzo di un libro molto bello che parla di credito e di debito, che si chiama La tua vita in 30 comode rate. L'autore è Gianluigi Recuperati e l'editore è La Terza. È un libricino piccolo con la copertina bianca e una ragnatela rossa e delle persone che ci rimangono intricate. È un libro che parla chiaramente di credito ed è proprio un viaggio nell'Italia che vive a credito. Questa è una roba di cui io non mi occupo, o meglio, come tutte le cose, non mi occupo fino a che non mi capitano tra le gambe o tra i piedi. E ieri questa roba mi è successa. Mi è successa perché vi racconterò dopo aver incontrato la mia maestra domenica che mi ha detto: Matteo, non c'è una fidanzata, non c'è un figlio, non c'è nemmeno una macchina. Ho cominciato a pensare che forse ci aveva ragione. E ho cominciato a pensare che forse era utile comprare una macchina, no? E lì è successa una cosa strana, è successa una cosa molto strana. Che se vai a chiedere quanto costa una macchina, può capitare che ti trovi una finanziaria che ti chiama a casa dicendoti: ma come? Lei non ha bisogno di soldi per comprare una macchina? E poi, parlandone prima, adesso vi racconterò meglio com'è andata, parlandone prima invece in redazione, ci siamo accorti che alla fine non bisogna essere una finanziaria per avere prestato dei soldi a qualcuno, e che tutti hanno qualcuno che gli deve dei soldi. 80024 0024 349 238 6666. Tutti hanno qualcuno a cui hanno prestato 1000 euro, a cui hanno prestato 500 euro, a cui gli hanno prestati 10.000 e sono lì che aspettano che questi soldi tornino. 80024 0024. Molti invece hanno qualcuno a cui devono dei soldi, evidentemente, perché se c'è qualcuno che aspetta sti soldi, c'è qualcuno che aspetta di darglieli. Lo stesso, 80024 0024 349 238 6666. Tu pensa che adesso addirittura la Juve sostiene che gli devono andare indietro due scudetti, no? Che cose balzane che accadono. 800, anche i dirigenti della Juve. 80024 0024 oppure 349 238 6666. Oggi solo con debitori e creditori voglio parlare. Oggi chiunque chiami mi deve raccontare di quanti soldi gli deve qualcuno. Che poi non è... cioè, dietro a quei soldi lì chiaramente c'è c'è una piccola storia, no? Ad esempio, ieri parlavo con un amico con cui gioco a calcetto e quando giochiamo a calcetto lui litiga sempre con uno dell'altra squadra, che però è un suo amico. Questi lavorano più o meno insieme, non so esattamente che lavoro facciano, però si parla di società, girano soldi, quelli che un giorno hanno il SUV e il giorno dopo probabilmente invece non ce l'hanno più e devono cercare un lavoro. E mi ha detto: ti ricordi il tizio, quello che gioca in difesa nell'altra squadra, che si lamenta sempre? Sai, gli ho fatto causa perché mi deve 1.400.000 euro. E gli ho detto: ma scusami, ma la prossima volta che giochiamo a calcetto insieme non ti imbarazzerà questa cosa? E lui mi ha risposto: beh, perché dovrebbe imbarazzare me? Scusa, dovrebbe imbarazzare lui. E non fa neanche effettivamente le sue pieghe. Insomma, se avete qualcuno che vi deve dei soldi, mi raccontate chi è, mi raccontate quanto vi deve, ma soprattutto, com'è, se c'è, com'è il rapporto con questa persona? Perché se è un amico, forse a un certo punto conviene anche cominciare a capire che quello amico non l'ha più tanto, o forse semplicemente voleva solo dei soldi. 80024 0024, 349 238 6666, perché poi appunto ti capita così di nemmeno comprare, ma di informarti per sapere quanto può costare prendere una macchina, e ti capitano cose così. Così, da quando domenica la mia maestra elementare mi ha chiesto di riaccompagnarla a casa in auto e io ero a piedi, ho deciso di cercarmi una macchina. Alla fine non ho più voglia di dipendere da qualcuno. Voglio poter andare via un fine settimana senza aspettare che qualcun altro vada via, o senza dover dipendere dalle stazioni dei treni per decidere dove andare. Nel senso che il treno è bello, però ogni tanto anche poter viaggiare per i fatti tuoi, oppure fermarti quando va a te, non è così male, no? Così, come succede spesso nella vita di un maschio, da quando ho iniziato a pensare che avevo bisogno di un'automobile, ho la casa piena di rivista sulle auto. Il porta riviste che tengo in bagno è stracolmo di foto e prove delle auto di ultima generazione. La cronologia del mio computer è piena di siti di tutte le marche del mondo. Alla fine, però, mi sono fatto questa idea. Ed è che le automobili costano uno sproposito. Cioè, si parla di botte di 15, 20 o 30 mila euro. Ma quante persone possono spendere 20 mila euro così, pronti via? Cioè, forse solo chi ha l'auto aziendale può permettersela, perché non la paga lui, c'ha pure la carta carburante e i taglianti compresi. Cioè, altrimenti, se lo stipendio medio in Italia è di, lo dicono i dati, 14.700 euro all'anno. Uno, come minimo, per comprarsi un'auto deve non mangiare o non pagare l'affitto per un anno intero, lui e tutta la famiglia, ovviamente. Invece no, a giudicare dal numero di pubblicità che passano su tutte le nuove automobili, secondo loro, secondo i costruttori, tutti noi dovremmo comprare un'auto nuova ogni 2 mesi. Purtroppo per loro, però, io compro solo auto usate. Cioè, trovo che comprare una macchina nuova sia veramente un'assurdità. Cioè, un secondo dopo che hai firmato l'assegno dal concessionario, l'auto vale almeno il 20% in meno di quello che l'hai pagato quando era in bella mostra nella vetrina. Lì, nell'autosalone. Quindi ho preso i giornali e mi sono messo a guardare le valutazioni dell'usato. E poi ho cominciato a cercare sugli annunci di seconda mano. Però la domanda a cui non avevo ancora risposto era: sì, va bene, ma che macchina voglio? Allora ho messo insieme tutte le variabili che entravano in gioco. Che non costasse più di 6-7 mila euro, che non fosse troppo lunga per il parcheggio e non troppo bella per il furto, che non fosse troppo vecchia per via del motore, che fosse comoda, perché è sempre meglio così. Io ho un'innata sfiducia nei confronti delle auto italiane, quindi mi sono indirizzato verso quelle francesi e quelle tedesche. Ho scartato quella a benzina, quella a gas, quelle sopra i 1700 di cilindrata. Quelle troppo brutte, quelle troppo belle. E mi sono trovato davanti ad una sorpresa. Io volevo ricomprarmi la stessa macchina che avevo venduto 6 mesi prima. Un'auto piccola e leggera, con una forma squadrata ma aerodinamica. Una specie di piccola navicella spaziale. E io ne ero ancora innamorato. E come sempre accade quando inizi a interessarti ad un particolare modello di auto, ti sembra di vederla in giro dappertutto. Nella tua via ce ne sono un paio parcheggiate, al semaforo ne incroci in continuazione. Ti sembra sempre più bella, sempre più desiderabile, che quasi ti stupisci di non essertene accorto prima che quell'auto fosse così straordinaria. Però la cosa che mi lasciava perplesso era che, a distanza di 3 anni, da quando avevo comprato quella prima, a me continuasse a piacere la stessa auto. Come se i miei gusti fossero rimasti invariati nel tempo. Come se non fossero successe delle cose in mezzo tra ora e allora. E io che mi ero convinto che i gusti fossero mutevoli, perché almeno lo speravo. Perché se cambiano i nostri gusti vuol dire che anche noi cambiamo. Che le persone possono essere, seppure di poco, però un po' diverse da come lo erano prima. Perché alla fine quello che ci piace ci definisce, dice chi siamo, dice come possiamo diventare. Se invece quella roba lì rimane invariata, significa che non c'è possibilità di cambiamento. Anche piccola, anche a distanza di tempo. E questo mi spiazza, perché allora è vero quello che diceva un tizio che ho conosciuto anni fa, che sosteneva che ognuno di noi è esattamente quello che era quando aveva 5 anni. Possiamo attenuare alcuni picchi, smussare certi angoli, ma nei momenti di stanchezza o di difficoltà, noi siamo quello che eravamo da bambini. Ecco, spero che non sia così. Spero che a me piaccia ancora l'Audi A2 solo perché non ne hanno fatte altre più belle di quella. Quindi, lunedì, sono andato a vederne un paio usate in 2 concessionari. Io adoro i venditori di auto. Non lo so perché, forse perché sono la quintessenza del venditore. Nel senso che loro devono rifilarti un prodotto molto sofisticato, di cui tu, e probabilmente in parte anche loro, comunque, di cui tu ignori il 95% del funzionamento. Cioè, le uniche cose che sai fare con l'auto sono riempire il serbatoio dello spruzzino che lava il parabrezza, fare il pieno di benzina e lavarla. Punto. Il resto è un enorme e affascinante mistero della tecnica. Quindi i concessionari devono inventarsi una maniera seduttiva di raccontarti quell'auto. Perché tu stai per spendere un sacco di soldi per una cosa che userai tutti i giorni, ma che fondamentalmente fa le stesse cose che fanno almeno altri 10 modelli simili, di cui almeno la metà costa meno. In più, nel mio caso, io volevo comprare un'auto usata. Quindi un'auto che qualcuno aveva lasciato lì nel loro negozio in cambio di una nuova. Quindi mentre io parlavo dell'auto e loro me la raccontavano, la sensazione era che se ne volessero liberare il prima possibile, perché loro ci guadagnano davvero poco dalle auto usate. Tutte e due mi hanno detto che danno 1 anno di garanzia, che fanno il tagliando, cambiano le gomme, tutte quelle cose lì che si fanno per rendere un'auto vecchia seminuova. Poi mi hanno chiesto come avevo intenzione di pagarla e mi hanno suggerito un finanziamento. Mi hanno fatto un veloce prospetto delle rate da pagare, io ho ascoltato entrambi, poi sono tornato a casa e ho continuato le mie ricerche. Poi ieri sera, dopo cena, mentre ero lì a casa, ho ricevuto una telefonata. Ne ho registrato un pezzo, sono riuscito a registrarne solo la parte finale, però più o meno è andata così. Dire che mai avessi bisogno di quei soldi, sicuramente siete sicuramente i primi che chiamo. Ok. Ma no, in questo momento no, però non si sa mai nella vita, no? Magari può capitare che tra qualche anno... Sì. Cioè, ho cercato un'automobile. Scusi, lei però com'è che lo sa? Allora, il fatto che io stia cercando un'automobile e che ce l'abbia bisogno, questo sono, immagino, fatti miei, giusto? È d'accordo con me? Ok. Ho semplicemente chiesto delle informazioni riguardo a un finanziamento e mi hanno semplicemente detto se vuole un finanziamento di questo tipo per tot mensilità, viene tot, altrimenti viene tot. Punto. Però io non ho sottoscritto niente. Soprattutto io non ho lasciato i miei dati. Quindi mi domando come lei sappia che io stavo cercando dei soldi per un finanziamento che peraltro non ho bisogno. Ma mi perdone, scambio di informazioni tra chi? Tra lei e il concessionario o tra lei e la finanziaria del concessionario, perché oltretutto non siete la stessa finanziaria. Insomma, è andata così, cioè mi ha telefonato questa signorina, non si sente chiaramente perché riuscivo a registrare solo la mia voce, che ha cominciato a chiedermi se avevo bisogno dei soldi, lei loro erano disposti a darmeli, io l'ho ringraziata dicendo sì, va bene, guardi, sarete i primi a saperlo se ne ho bisogno. E poi a un certo punto questa mi ha detto: ma scusi, ma lei non deve comprare un'automobile? E chiaramente la prima domanda che mi è venuta in mente è stata: ma scusi, lei come lo sa? E lì è venuto fuori tutta questa questione per cui si scambiano delle informazioni. Non voglio entrare nel merito, ne parlerò con la Rosciani o con Spezia o con Barisoni per capire esattamente come vanno queste cose. Però è stato quantomeno curioso. Ed è quindi, e questo è il motivo per cui oggi vorrei capire quante persone devono dei soldi a qualcuno e a chi abbia voglia di chiamarmi. 80024 0024. Avevo prestato, questo è il migliore. Avevo prestato dei soldi al mio migliore amico, passavano i mesi e non avevo il coraggio di chiedergli di restituirmeli, per non rovinare l'amicizia. Allora mi inventai un sistema. Vista la mia scarsa allora capacità di comprare online, gli chiedevo di comprare per me le cose che mi servivano. Ci ho messo un anno, ma siamo andati in pari. Ciao, Matteo di Verona. Un mio ex amico e collega ha voluto la mia auto usata 10 anni fa, mi dovrebbe ancora 2 milioni di lire. C'è un pezzo di Amleto in cui Polonio, guarda come mi vengono i nomi, in cui Polonio, ne so una di Amleto però me la gioco. Allora Polonio, che è il padre di Laerte, che è quello che ucciderà Amleto, lo sta salutando per partire perché Laerte deve fare un viaggio, e tra i vari consigli che gli dà gli dice una cosa che più o meno suona così: non dare e non chiedere prestiti agli amici, perché col prestito perdi i soldi e l'amico. Ragazzi, 16:26, si cita Shakespeare a Radio 24. Sono un mediatore finanziario, devo tanti soldi. Va bene, ciao Matteo, sono Maurizio da Roma, sono un debitore. Vabbè, però è il mutuo, ti assicuro che un sacco di soldi. No, ma il mutuo non vale, cioè il mutuo, chi è che non ha un mutuo, un affitto? Ciao Matteo, ho prestato 10.000 euro a un amico. Sono sempre amici. 10.000 euro a un amico, quando doveva ridarmeli ha avuto due ictus. Vabbè, però... è ancora messo molto male, non ricorda nulla. Monica, non riesco ad andare alla famiglia a dirglielo, ma ti credo, aspetta un attimo, magari se crepa è più facile, quando muore, ma guardate, mi doveva 10.000 euro. Avevo un po' di amici scrocconi, io e altri amici li abbiamo chiesti indietro e i simpaticoni ci hanno abbandonato. L'unico dei miei attuali amici spiaciuto di essere stato abbandonato da questi ladruncoli è un buonista, un po' tontolino. Mi trova rigido nelle mie posizioni, ma allo stesso tempo è quello che ha prestato tanti soldi da essere soprannominato da quelle persone Bancomat. Questo non è male. 800240024 oppure 349-238-6666. Se vi devono dei soldi, me lo raccontate dopo la borsa. Io sono qui. Nella foto c'è la faccia di chi l'ha scattata. Non capita spesso, di solito sono solo ambienti, oggetti. Qui invece c'è la faccia della ragazza che è la protagonista della foto ed è nell'angolo in basso a destra. Ha dei bei capelli a caschetto neri, proprio tagliati a frangetta qui, sopra le sopracciglia. Degli occhiali con una montatura scura e si tiene una mano appoggiata alla guancia, come se stesse pensando. In realtà guarda qualcosa sul soffitto e nella foto c'è un uccellino che sta volando, però è stato creato l'uccellino, non è... c'è una foto rielaborata, insomma. E alle sue spalle c'è invece una libreria con un ordine maniacale. Sembrano quelle librerie che ci sono dietro alle spalle dei direttori dei giornali quando li intervistano. Solo che lì i libri sono un pochettino messi a caso, qui invece i libri sono in ordine perfetto. Ciao, sono Chiara Cappa, 36 anni, sono nel mio studio, sono un'insegnante e sono come gli studenti anch'io divisa tra i miei libri e la mia voglia di evasione. Io sono qui. Probabilmente la voglia di evasione di Chiara è proprio di evadere da questo ordine che la attanaglia. Andate a vedere la foto sul sito di Radio 24, che è radio24.it, la pagina Io sono qui. Se invece volete continuare a mandare le vostre foto per Io sono qui, come state già facendo, ho creato un'altra cartella apposta, e voi dove siete? Numero 2, banalmente, perché fantasia non ci difetta. È sempre sul profilo Facebook, che è Matteo Caccia Io sono qui. Sul profilo Facebook, Tiziano Bonini tutti i giorni carica il podcast della puntata, appena viene creato qui dal creatore dei podcast della radio. Però c'è un modo più semplice, che è andare su iTunes e abbonarsi al podcast. In quel modo ogni giorno, se basta che ci andiate e potete cliccarci sopra, ve le scarica. L'altro modo invece è molto ancora più semplice, è andare sul sito della radio nella sezione podcast e in ordine alfabetico c'è Io sono qui, andate lì e ve lo scaricate di 5 giorni in 5 giorni, giusto Tiziano? Perché altrimenti se si aspetta un po' di più non se ne può fare niente. Ok. www.radio24.it alla sezione podcast. 800240024 invece per chiamare e per mandare i messaggi è 349-238-6666. Lo dico perché arrivano i messaggi tipo: a mio fratello ho prestato 1000 euro quest'estate. Ah, devo a mio fratello 1000 euro. Mi ha prestato i soldi per andare in Spagna in cerca di lavoro. Alla fine non ho trovato nulla, ho speso i suoi soldi e non ho guadagnato niente. Senti, caccia, lascia stare la Juve. Vabbè, qui chiaramente appena si parla di calcio non ce n'è. Però io sono convinto che sia giusto dare a Cesare quel che è di Cesare. Mia sorella per 150.000 lire si è fatta cancellare dalla mia vita. Lorenzo, ma chiamaci, chiamiamo tua sorella, vediamo, troviamo il modo di darti sti 75-80 euro, quanti sono? Te li dà Paolino Corleoni pur di farvi fare pace. Ho prestato 1000 euro alla sorella di mia moglie 9 mesi fa, ora li potrebbe restituire, ma vuole andare a fare un viaggio in Marocco. Sti cazzi, scrive Pasquale. Pasquale, c'hai anche ragione, parlane con tua moglie. Non ho mai avuto un debito, per questo questi sono i migliori. Perché poi chiaramente è una propensione, no? Avere i soldi in prestito e fregarsene, e invece, oppure no. Non ho mai avuto un debito in vita mia, per questo a distanza di 30 anni ancora mi ricordo con sofferenza di dover dare 10.000 lire al mio ex compagno di banco, Cristiano. Cioè, sono dei medici molto bravi per curare queste cose. 800240024, andiamo a Roma da Aurelio. Pronto Aurelio? Pronto, ciao Matteo, come stai? Ciao, io sto bene, tu? Discretamente. Ti volevo raccontare una piccola storiella. Vai Aurelio. Ho prestato 5.000 euro ad un mio amico e voleva andare a Londra a fare l'artista. Quanto tempo fa questo, Aurelio? 3 anni fa. Ok. Ebbene, ci è andato, lì ha conosciuto una ballerina francese che lo ha spremuto come un limone. Oh, non ce n'è uno dritto, l'amico che fa l'artista è la ballerina francese, sembra un film. Ecco, si è messo nei casini, sono dovuto andare a riprenderlo perché ha litigato in una rissa, in un pub lì. Sì. Sono dovuto andare a prenderlo e ho speso 4.000 pounds per ritornare tutte e due. Adesso free hamburger e la Mac. Quindi scusami, sono 6.000 euro, 4.000 pound sono più o meno 6.000-6.500 euro? No, 5.000 euro all'inizio, poi 4.000 euro quando sono andato a riprenderlo lì a... No, però stavo cercando di fare la conversione da pound da sterline a euro, per cui 4.000 pound sono più o meno 6.000 euro, più gli altri 5 sono 11-12.000 euro che ti deve. Infatti. E solo tu, che è un grande amico e adesso fisi hamburger da Mac. E pian piano. Scusa, Aurelio, non ho capito. Friggi hamburger? Da McDonald's. Ah, da McDonald's. Tu invece cosa fai, Aurelio? Io sono all'università. Sto per finire, sono alla tesi. Ah, tu ti stai laureando ancora? Sì. E scusami, sì. E tutti questi soldi, dov'è che li prendi, Aurelio? Perché fai dei prestiti? C'è mamma che mi dà qualcosa, poi faccio anch'io un lavoretto. Ma Aurelio, scusami, quindi è a tua madre che il tuo amico deve i soldi? Per buona parte sì, e per buona parte a me. Ma Aurelio, quanti anni hai, scusami? Perché hai una 32. Però hai la pacatezza di un uomo di 60, è meraviglioso. Che cosa studi, Aurelio? Giurisprudenza, ok, quindi sarai... Ma 32 anni, ti manca tanto? No, sono alla tesi, mi sto laureando. E su cosa fai la tesi? Sul diritto dell'Unione Europea, i rapporti tra la Corte Costituzionale e la Corte di Giustizia. La media è buona? Sì, ho tra 26 e 27 più o meno. Guarda, benissimo, mi fido di te Aurelio, buona giornata e grazie. Anche a te. Ciao, alla prossima. Ciao. Andiamo da Carlos, in provincia di Udine. Pronto Carlos? Ehi, pronto, ciao Matteo. Ciao, buongiorno, di dove sei? Ciao. Carlos? Sono di Buia, Udine. Ma quindi il nome Carlos è proprio, te l'ha dato i tuoi perché avevano... Sì, no, in realtà è perché io ho il papà carnico del Friuli appunto e mia madre dell'Honduras, del Centro America. Ah, ok, e tu giri sempre con un passamontagna in faccia. Così, giusto per non farti riconoscere. Sì, sì, no, in realtà no. In realtà no. Senti, però tu hai dei debiti. Sì, allora, io ho dei debiti e, boh, in realtà sono sempre stato legato al debito, ahimè. Nel senso che fin da quando ero ragazzino, ho sempre, diciamo, quando avevo bisogno di qualcosa, avevo qualche amico che facilmente mi diceva, boh, dai, guarda, te li do io, poi casomai me li ritornerai più avanti. Ma per comprare che cosa? Fammi un esempio, ma Carlo. All'inizio erano cose molto futili, diciamo collane di fumetti di cui sono appassionato. Poi, oppure... poi invece sono diventati tipo la casa. No, la casa no, ma boh, sicuramente tra poco avrò a che fare anche con debiti di insomma così grandi. Ma no? Scusa, hai mai fatto un conteggio però di quanti soldi devi in generale? Allora, io devo, allora andando a vedere i soldi che devo, penso 1500 euro, quindi non tanto ancora. Il problema è che uno dice non tanto e intanto magari continua ad accumularle. Certo, quindi è quello il vero problema, chiaro. Riuscire a liberarsi dei debiti, riuscire a dire ho bisogno di quella cosa, ho i soldi, no, quindi non la compro. Ma e tu, scusami, a Carlos, hai in mente di ripianarli sti debiti oppure no? Sì, assolutamente, anzi ho già colmato qualche debito. Bene, sono solo 15 anni alla fin fine che... No, da quando hai 15 anni? Da quando ho 15 anni, adesso ne ho 22, quindi non è ho accumulato, diciamo, ogni anno debiti per 200 euro. Che cosa fai? Studi, Carlos? No, lavoro, quindi adesso dovrei riuscire tranquillamente a bravo, a Carlos, tornare tutti questi soldi. In bocca al lupo, grazie mille. Ciao, alla prossima. Grazie, grazie, ciao. Andiamo in provincia di Treviso da Paolo. Pronto, Paolo? Ciao. Ciao, come stai? Bene, Matteo, tu? Io bene, anch'io. Senti, hai prestato dei soldi ad un amico, anche tu? Allora, ti spiego. Vai. Io circa 30 anni fa, ho 54 anni, quindi 25 anni fa all'incirca, sì, ho prestato 4 milioni, che era una bella cifra, no? Sì. Perché era in grosse difficoltà. E poi, comunque, lui regolarmente mi ha ridato i soldi. Sì. E a distanza di moltissimo tempo, parlando una sera con un altro amico, questo mi dice, guarda, a chi hai prestato i soldi, soprattutto agli amici... Poi non si ricordano più di te, dico, è impossibile, cavolo, se io ho salvato un amico dal fallimento, gli ho dato una mano, perché dovrebbe fare ciò? Però mi è rimasto il tarlo dentro, hai capito? Sì. E ho fatto una prova, un giorno prendo il telefono e chiamo questo mio amico a cui avevo prestato i soldi a quell'epoca, sì, e gli dico, Sergio, avrei bisogno... Subito gli volevo chiedere 3.000 euro, ho detto, ma avevo quasi paura che mi dicessi di no. Gli dico, mi puoi prestare 1.500 euro? Questo ti parlo di 2 anni fa. E com'è finita, 1.500 Paolo? Euro. È finita tranquillamente, che questo mi ha detto, guarda, non posso. Come non puoi? Io ti ho prestato 4 milioni 20 anni fa, cavolo, che erano una cifra ben Senti, diversa. Quindi fondamentalmente te li deve ancora sti soldi. Ha negato che io gli avessi prestato i soldi. Ah, l'ha proprio negato. Ah. L'ha negato, quindi io dico, vabbè, ho perso un amico e mi ha fatto piacere perderlo in quel caso. Immagino, però pure ex 4 milioni. Paolo, questi grazie sono mille. I veri amici. Ciao, buona ciao, giornata, buona giornata, ciao, anche a te. Quasi ho prestato 4.000 euro al mio amico che mi ha detto, sai che non ti ridrò mai indietro, vero? Certo che no. E poi, sono un mediatore finanziario, devo tanti soldi a molti e mi devono tanti soldi in molti, intanto faccio mutui e prestiti ai clienti. Storia emblematica, se vuoi ti racconto. Se vuoi ci racconti, ti abbiamo contattato, però hai detto che hai paura che ti riconoscano. Andiamo a Livorno da Gianni. Pronto, Gianni? Ciao, come stai, Gianni? Molto bene, grazie. Nonostante molti debiti, certo. Quanti debiti hai? Bah, 100.000. Come 100.000? No, ma 100.000 debiti o 100.000 euro? No, 100.000 euro. Ma di cosa? La casa? La casa e poi mio figlio un corso professionale da 40.000 euro. Scusami, che corso professionale è di 40.000 euro? Chef. Corso di chef costa 40.000 euro? Fra una cosa e l'altra, sì. Ma dove? In una scuola? In un'università? Sì, da Gualtiero Marchesi. Ah, quindi la scuola. Certo. Senti, e come li stai dilazionando questi 100.000? In 8 anni. Qui... Ma li metto in coda al mutuo. Gianni, perché mi sta venendo caldo pensando alla tua condizione? Che lavoro fai nella vita? Impiegato. Dove, si può dire? Certo, informatore scientifico. Sei informatore scientifico? Sì. Che non è quello che porta i medicinali ai... Sì, una specie. Ah, sì. Però non vai in giro? Sì, vado in giro. Ma allora non sei un impiegato, scusami. Vabbè, il rapporto è quello. Sei tipo rappresentante?